Il re d'Egitto raccolse forze numerose, come la sabbia, che è lungo il lido del mare, e molte navi, e cercava di imbadronirsi con l'inganno del regno di Alessandro, per annetterlo al proprio regno. Venne in Siria con dimostrazioni pacifiche, e tutte le città gli aprivano le porte e gli andavano incontro, perché era ordine del re Alessandro di andargli incontro, essendo suo suocero. Ma quando Tolomeo entrava nelle città, stabiliva in ognuna di esse le sue truppe di guarnigione. Quando giunse ad Asdod, gli mostrarono il tempio di Dagon bruciato e i villaggi intorno distrutti, i cadaveri buttati qua e là e quelli carbonizzati dagli incendi nella guerra. Gli avevano appunto accumulati lungo il percorso del re. Raccontarono al re quanto aveva fatto Jonata per metterlo in cattiva luce, ma il re tacque. Jonata andò incontro al re in Giaffa con grande apparato e si salutarono a vicenda e passarono la notte colà. Jonata accompagnò poi il re fino al fiume chiamato Eleutero e fece ritorno in Gerusalemme. Il re Tolomeo si imbadonì di tutte le città della costa fino a Seleucia marittima e covava piani iniqui riguardo ad Alessandro. Mandò un'ambasciata a dire al re Demetrio: «Su, concludiamo un'alleanza fra noi. Io ti darò mia figlia che Alessandro ha in moglie e la possibilità di rientrare nel regno di tuo. Mi sono pentito di avergli dato mia figlia, perché ha cercato di ucciderlo. Lo calunniò perché egli aspirava al suo regno. Quindi, toltagli la figlia, la diede a Demetrio e cambiò atteggiamento verso Alessandro e divenne così manifesta la loro amicizia. Tolomeo entrò in Antiochia e cinse la corona dell'Asia. Si pose in capo due corone, quella dell'Egitto e quella dell'Asia. Alessandro in quel frattempo era in Cilicia, perché si erano sollevati gli abitanti di quelle province. Appena seppe la cosa, Alessandro venne contro di lui per combattere. Tolomeo condusse l'esercito contro di lui e gli andò incontro con forze ingenti e lo sconfisse. Alessandro fuggì in Arabia per trovarvi scampo, e il re Tolomeo trionfò. L'arabo Zabdiel tagliò la testa ad Alessandro e la mandò a Tolomeo. Ma anche il re Tolomeo morì 3 giorni dopo, e quelli che egli aveva lasciato nelle fortezze furono sopraffatti da altri che si trovavano sulle fortezze stesse. Così Demetrio divenne re nell'anno 177. In quei giorni Jonata radunò gli uomini della Giudea per espugnare l'Acra in Gerusalemme e allestì molte macchine contro di essa. Allora alcuni nemici del popolo, uomini iniqui, corsero dal re ad annunciare che Jonata assediava l'Acra. Sentendo la cosa, quegli si adirò. Quando ne ebbe conferma, si mise subito in viaggio, venne a Tolemaide e scrisse a Jonata di sospendere l'assedio e di andargli incontro a Tolemaide al più presto, perché per un colloquio. Quando Jonata ricevette il messaggio, ordinò di continuare l'assedio e, scelti alcuni anziani e sacerdoti, decise di esporre se stesso al pericolo. Prese con sé argento e oro, vesti e molti altri doni e si recò dal re a Tolemaide e trovò favore presso di lui. C'erano però alcuni traditori nel suo popolo a deporre contro di lui, ma il re lo trattò come lo avevano trattato i suoi predecessori e lo esaltò davanti a tutti i suoi amici, lo confermò nella dignità di sommo sacerdote e in tutti quegli onori che aveva prima e stabilì che fosse annoverato tra i primi suoi amici. Jonata ottenne che il re dichiarasse la Giudea esente dai tributi, insieme alle 3 toparchie e alla Samaria, e gli promise 300 talenti. il re acconsentì e scrisse a Jonathan, a proposito di tutto questo, lettere del seguente tenore. Il re Demetrio al fratello Jonathan e al popolo dei Giudei saluto. Vi mettiamo anche a voi copia della lettera che abbiamo scritta all'Aster, nostro parente intorno a voi, perché ne prendiate conoscenza. Re Demetrio e l'Astene suo padre salute. Abbiamo deciso di beneficare il popolo dei Giudei, nostri amici e rispettosi dei nostri diritti, per la loro benevolenza nei nostri riguardi. Abbiamo assegnato a loro il territorio della Giudea, i tre distretti di Aferema, Lidda e Ramatai. Restano trasferiti dalla Samaria alla Giudea, con le loro dipendenze in favore di quanti offrono sacrifici in Gerusalemme, in compenso dei diritti che il re prelevava in passato ogni anno da loro frutti della terra e degli alberi. Da qui innanzi tutte le altre nostre competenze delle decime e delle tasse a noi dovute e le saline e le corone a noi spettanti, tutto condoniamo loro. Nessuna di queste disposizioni sarà mai revocata da oggi. Sia dunque vostra cura preparare una copia della presente e rimetterla a Jonathan perché sia esposta sul Monte Santo in luogo visibile. Il re Demetrio, vedendo che il paese era in pace sotto di lui e nessuno gli faceva resistenza, congedò le truppe perché ognuno tornasse a casa sua, eccetto le forze straniere che aveva assoldate dalle isole dei pagani. Allora gli si inimicarono tutte le milizie dei suoi padri. Trifone, che prima stava con Alessandro, vide che tutte le milizie mormoravano contro Demetrio e andò presso l'arabo Imalcue, che allevava il piccolo Antioco, figlio di Alessandro. Egli insistette che glielo cedesse per farlo regnare al posto di suo padre e gli riferì quanto aveva fatto Demetrio e l'ostilità che avevano per lui i soldati e rimase là molti giorni. Jonathan intanto mandò a chiedere al re che richiamasse gli occupati dell'Acra in Gerusalemme e quelli delle altre fortezze perché erano sempre in lotta con Israele. Demetrio fece rispondere a Jonathan: «Non solo questo farò per te e per il tuo popolo, ma colmerò te e il tuo popolo di onori appena ne avrò l'opportunità. Ora però farai bene a inviarmi uomini che combattano con me, perché si sono ritirate le mie truppe». Jonathan gli inviò ad Antiochia 3.000 degli uomini più forti. Essi si recarono presso il re e il re si rallegrò della loro vittoria. I cittadini della capitale si radunarono al centro della città in numero di circa 120.000 uomini e volevano eliminare il re. Il re si rifugiò nel palazzo, ma i cittadini occuparono le vie della città e incominciarono ai combattimenti. Il re chiamò in aiuto i giudei, i quali accorsero tutti a lui, poi si sparsero per la città e ne uccisero in quel giorno circa 100.000. Quindi incendiarono la città, fecero in quel giorno gran bottino e salvarono il re. I cittadini videro che i giudei si erano impadroniti della città a loro piacere e si persero d'animo e gridarono verso il re con voce supplichevole: «Stendi a noi la destra e desistano i giudei dal combattere noi e la città». Gettarono le armi e fecero pace. I giudei credettero in fama presso il re e presso quanti erano nel suo regno e fecero ritorno in Gerusalemme, portando grande bottino. Demetrio rimase sul trono del suo regno e il paese fu in pace sotto di lui. Ma rinnegò quanto aveva detto, cambiò rapporti con Jonathan e non corrispose alla benevolenza che egli aveva dimostrato, e lo fece soffrire molto. Dopo questi fatti, Trifone ritornò con Antioco, ancora adolescente, il quale cominciò a regnare e cinse la corona. Si raccolsero presso di lui tutte le milizie che Demetrio aveva licenziate e gli mossero guerra. Egli fuggì e rimase sconfitto. Trifone catturò gli elefanti e si imbagionì di Antiochia. Allora il giovinetto Antioco scrisse a Jonathan: «Ti confermo il sommo sacerdozio, ti faccio capo dei quattro distretti e ti congedo di essere tra gli amici del re». Gli inviò vasi d'oro e un servizio da tavola con la facoltà di bere in quei vasi, di vestire la porpora e portare la Bibbia d'oro. Nominò anche Simone, suo fratello, comandante della scala di Tiro, fino ai confini dell'Egitto. Jonata si diede a percorrere la provincia dell'Oltrifiume e le varie città e accorse a lui, come alleato, tutto l'esercito della Siria. Andò ad Ascalona e i cittadini gli uscirono incontro per rendergli omaggio. Di là passò a Gaza, ma gli abitanti di Gaza gli chiusero le porte. Egli la cinse d'assedio e incendiò i sobborghi e li mise a sacco. Allora quelli di Gaza supplicarono Jonata, il quale diede loro la destra, prelevando i figli dei loro capi come ostaggi e inviandoli a Gerusalemme. Poi percorse la regione fino a Damasco. Jonata venne a sapere che i capi di Demetrio si trovavano presso Chedes in Galilea, con un numeroso esercito e con l'intenzione di distoglierlo dall'impresa. Egli si mosse contro di loro, lasciando il fratello Simone nel paese. Simone si accampò contro Bet-Zur e l'assalì per molti giorni, assediandolo. Allora supplicarono che desse loro la città, ed egli la diede, ma li fece sloggiare di là, occupò la città e vi pose una guarnigione. Jonata, a sua volta, e il suo esercito si erano accampati presso il lago di Genesaret e raggiunsero di buon mattino la pianura di Casor. Ed ecco l'esercito degli stranieri avanzare contro di lui nella pianura, dopo aver disposto appostamenti contro di lui sui monti. Essi avanzavano di fronte quando gli appostati sbucarono dalle loro posizioni e attaccarono battaglia. Tutti gli uomini di Jonata fuggirono, nessuno di loro rimase se non Mattatia, figlio di Assalone, e Giuda, figlio di Calfi, comandanti di contingenti dell'esercito. Allora Jonata si stracciò le vesti, si cosparse il capo di polvere e si prostrò a pregare. Poi ritornò a combattere contro di loro, li sconfisse e li costrinse alla fuga. I suoi che erano fuggiti, quando videro ciò, ritornarono a lui e con lui si diedero all'inseguimento fino a Chedes, dove era il loro accampamento, e là anch'essi si accamparono. Gli stranieri caduti in quel giorno furono circa 3.000. Jonata poi tornò a Gerusalemme.